Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Buongiorno, era il 22 aprile del 2013, 5 mesi fa. Questo è il discorso che Giorgio Napolitano ha pronunciato in occasione del giuramento nell'aula della Camera dei Deputati per il suo secondo mandato. Un appello all'unità, alla collaborazione tra i partiti per superare la crisi economica, sociale e politica dell'Italia. Tutti l'avete sentito, tutti lo applaudivano, da destra a sinistra. Insomma, sembravano tutti d'accordo nel seguire la linea dettata dal Presidente della Repubblica. Oggi siamo all'epilogo del secondo esecutivo costruito da Napolitano sulla stessa linea. Fra mezz'ora, a meno di mezz'ora, sapremo se Letta otterrà la fiducia al Senato grazie a un manipolo, un numero imprecisato di diversamente berlusconiani capitaneati da Alfano, oppure grazie a un possibile cambio di linea di tutto il partito Forza Italia, Berlusconi compreso. Le notizie sono le più incerte possibile. Questo da tempo oramai è chiaro, è una partita prevalentemente giocata tra Silvio Berlusconi e Giorgio Napolitano, che dal momento della sua rielezione è il vero dominus della politica italiana. E in questo poker il punto più drammatico è stato toccato, il più basso, l'altra sera quando è andata in onda la telefonata a Piazza Pulita. Risentiamola. Mi è stato detto che il capo dello Stato avrebbe telefonato per avere la sentenza prima che venisse pubblicata. Dopodiché ha ritelefonato da capo. Ha fatto ritelefonare da lupo al presidente della Cassazione, che ha chiamato il presidente di sezione, costringendolo a riaprire la camera di consiglio. Cosa che non succede mai. Perché la sentenza era già pronta il 27 giugno. E riaprendo la camera di consiglio, hanno tolto circa 200 milioni che De Benedetti doveva avere in meno. È una cosa gravissima. Questa è la replica immediata, durissima, del Quirinale. Quel che sarebbe stato riferito al senatore Berlusconi circa le vicende della sentenza sul lodo Mondadori è semplicemente un'altra delirante invenzione volgarmente diffamatoria nei confronti del capo dello Stato. Erano le 21.30 del 30 settembre. Da quel momento è nato un continuo di riunioni, di conciliabili, di mosse, di contromosse. In queste girandole di decisioni, di marce indietro, Epifano, il segretario del PD, sentite cosa pensava dell'ipotesi di un governicchio. Era lunedì ed era qui da noi, a Mix 24. No, il governicchio vuol dire no un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità, tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato, lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno. Allora, tra 20 minuti comincia il discorso. A che punto siamo? Rapidamente, Secchi. Allora, la situazione è questa qua. L'incontro di ieri notte, ultimo, tra Berlusconi e Alfano è durato solo 15 minuti ed è saltato l'incontro di stamattina. Si va alla conta probabilmente con una spaccatura del PDL. Non saranno transfughi, troveranno i voti glieli daranno, non saranno transfughi perché cominceranno a costruire una nuova stagione politica. Ecco, per capire come mai la situazione non riesce ad andare avanti perché comunque è bloccata, è interessante sentire quello che Casini, Pier Ferdinando Casini, diceva 3 anni fa, ma sembra oggi. Abbiamo un Presidente del Consiglio che, non guardando la realtà in faccia e passando di voto di fiducia in voto di fiducia, capo dello Stato parla di reiterati ricorsi alla fiducia, sta sommergendo tutti noi e il Parlamento nel discredito che acquisisce con il Paese, perché questa è la realtà. Poiché siamo in sede politica, io vorrei ricordare che i colleghi della maggioranza dovrebbero essere i primi a rendersi conto di questa grandissima anomalia, di questa sorta di bomba atomica che sta scoppiando. Un paese sempre più distante dalla politica, una politica che sprofonda nel discredito. Siamo davanti allora a un vero cambio di epoca, come scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore di oggi. Secchi. Sì, direi di sì, oggi è attesa una svolta, non ci saranno i diversamente berlusconiani, ci saranno i post-berlusconiani, che sono un'altra cosa. Ecco, ma la leadership del presidente Napolitano viene dall'enorme successo, anche dall'enorme successo che ha ottenuto con le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, partite fra lo scetticismo di quasi tutti e finite in un consenso enorme che ha moltiplicato la forza della sua leadership morale e politica. I segni di questa determinazione si sono avvertiti fin dall'inizio, dal discorso inaugurale della celebrazione del 7 gennaio del 2011 a Reggio Emilia. A forze politiche che hanno un significativo ruolo di rappresentanza democratica sul piano nazionale e lo hanno in misura rilevante in una parte del paese, vorrei dire che il ritrarsi o il trattenere le istituzioni dall'impegno per il 150enario, che è impegno a rafforzare le condizioni soggettive di un'efficace guida del Paese, non giova a nessuno. Non giova a rendere più persuasive, potendo invece solo indebolirle, legittime istanze di riforma federalistica e di generale rinnovamento dello Stato democratico. Buttafuoco, è iniziato qui il crollo della Lega? No, non credo. La Lega crolla perché è diventata sistema. La Lega crolla perché poi si è smarrita in quelle storie di cerchio magico, di diamanti, di un discredito che ha innanzitutto intaccato la presenza nel territorio. D'accordo? Beh, il declino di Bossi. Declino di Bossi. Ecco, a chiudere le celebrazioni per alleggerire dell'Unità d'Italia ci ha pensato Benigni al Quirinale e in questo modo divertente. Sono lieto di essere qua, al minimo accenno sarei venuto. Io volevo venire a cavallo, ma non mi è stato permesso, come a Sanremo sarebbe stata un'entrata straordinaria, non c'era neanche lo spazio. Comunque, qualsiasi momento in questo luogo straordinario, che è, diciamo, il palazzo più bello del mondo, il Quirinale, diciamo, su questo non c'è discussione. Se lei, Presidente, ha bisogno di me per qualsiasi cosa, sostituire un corazziere, fare un qualsiasi cosa ha bisogno, un settennato tecnico, sono a disposizione. Se lei mi chiama, io sono a disposizione, glielo dico. Oggi finiscono i 150 anni dell'Unità d'Italia, domani torna tutto come prima, Granducato di Toscana, Regno di Sardegna, eccetera, eccetera. Paolo Franchi, autore di una biografia su Giorgio Napolitano, la traversata da Botteghe Oscure al Quirinale, sta girando l'Italia insieme all'onorevole Macaluso per presentare il suo libro. Paolo, sei al telefono? Sì, sono al telefono. Ciao. Ecco Paolo, tu hai scritto questo libro su Giorgio Napolitano, è lì che è iniziato il suo successo, la presa davvero sul paese, dalle celebrazioni del 150 anni? Credo, adesso non so se sia proprio il momento d'inizio. Credo ha contribuito. Ha contribuito in modo determinante, che siano state, voglio dire, potevano essere una celebrazione c'erano tanti dubbi, diciamo, no, sulle impostazioni. Certo, naturale. Invece sono state costruite con maestria, diciamo. Ecco, quindi hanno dato il loro contributo. Un risultato importante. Sì. Ecco, so che stai andando, mi sembra, a Catania a presentare il tuo libro. Con te c'è Emanuele Macaluso. Non a Catania. Sì. Dov'è? No, siamo a Teramo. Teramo, scusami, formato male. Vabbè, è uguale. Senti, ma ce la farà, secondo te, Napolitano a far prevalere le ragioni dell'esistenza del governo Letta, pur osservando da lontano al Quirinale, ma mica tanto da lontano? Io credo, se dovessi scommettere a quest'ora del mattino, diciamo, sì. Io scommetterei per il sì, insomma, la mia puntata la farei su un fatto che gliela farà. Si gioca logicamente sul filo di lana, poi se sono le sorti del governo Letta è comunque la ricerca di un punto, certo, di la ricerca del mantenimento, diciamo, di un punto di equilibrio. Ecco. È questo, sì. Paolo, c'è Macaluso con te? No, io ho dato, scusa se ti do un'informazione tecnica in diretta, ma ho fornito a chi mi ha chiamato il suo. Ah, grazie. Allora lo chiamiamo. Volevo dirti il. Lo chiami direttamente. Sì, tu stai facendo il giro d'Italia col tuo libro, sostanzialmente. Sì. Devo dire. Il riscontro è forte. Che il riscontro è forte, perché nei posti più, di parte delle grandi celebrazioni, insomma, le presentazioni più importanti, ma quelle forse più significative, mi incuriosisce anche di più il tipo di persone che vengono. Insomma, gente la più diversa. Soprattutto nei piccoli nei paesi, cioè lì il presidente è passato con la sua leadership. Grazie. Grazie Paolo, abbiamo il telefono Emanuele Macaluso. Emanuele, una domanda sola, grazie. Buongiorno. Intanto di aver aspettato. Lo scontro tra Berlusconi e Napolitano è arrivato all'epilogo secondo te? Beh sì, mi pare che l'attacco che ha fatto Berlusconi alla presidenza, al presidente, è veramente incredibile, perché lo ha messo quasi al centro di un complotto per farlo fuori, mentre c'è stata poi tutta una parte dei giornali, io penso al Fatto Quotidiano, di Travaglio eccetera, che lo hanno attaccato continuamente, il presidente, dicendo invece che era l'uomo che proteggeva Berlusconi, che Berlusconi esisteva ed era lì perché c'era il Colle che lo teneva lì e lo proteggeva. Quindi vabbè, è stato smentito come al solito. Non si vuole mai capire che questo presidente, forse in maniera veramente straordinaria, ha guardato all'Italia e agli italiani tutti, e quindi ha fatto, osservando la Costituzione, una politica che riguarda appunto l'interesse generale del paese, la collocazione dell'Italia in Europa e nel mondo. Grazie. È arrivato finalmente. Siamo all'epilogo. Ormai siamo all'epilogo. Grazie. Io credo. Grazie Emanuele, grazie mille per la tua testimonianza. Ecco, Napolitano ha spiazzato tutti, anche ricevendo Beppe Grillo. Sì, no, a me mi è piaciuto molto. No, allora dobbiamo trovare un altro, non chiamarlo più Morfeo. Dobbiamo trovare un altro, perché mi è piaciuto molto. Insomma, si può dire che Napolitano, abbiamo sentito anche la testimonianza di Macaluso, è determinato a portare l'Italia fuori dalla crisi. Pietrangio, da questa mattina tu mi stai asfissiando in qualche modo, perché vuoi farmi sentire una canzone che c'entrerebbe con questa vicenda. Mi dici qual è intanto? Scalinatella. Perché serve a far capire come dell'idea, non so se si comincia già a sentire, ecco c'ha questa partenza, questa andanza, dall'idea di qualcosa di partenopeo inesorabile, che non è pittoresco, non è la tarantella, ma è un modo di accerchiare le cose, di avvolgerle, di costruirle, di ingabbiarle e di risolvere, anche a costo di fare, oltre le macerie, delle eccellenti esecuzioni. Un grande avversario di Giorgio Napolitano, per esempio, Ingroia, che venne raccontato come l'eroe delle due montagne, se non proprio dei due monti, ecco, si ridurrà a cantare nei matrimoni. Ha esaurito ormai tutta la sua verba. Per la mia tosse, ma già sono un po' malato. Ecco, quindi abbiamo capito bene il senso di questa canzone, dell'avvolgimento di Napolitano d'accordo, sei d'accordo? Beh, sì. È interessante quello che ha detto Macaluso, secondo me, nel breve collegamento, perché la parola giusta probabilmente è epilogo. Noi stiamo chiudendo un capitolo di una storia, attenzione, non tutta la storia, un capitolo, e tra un'ora comincia una nuova parte di questo romanzo italiano, insomma. E quindi questo romanzo italiano sarà una pagina però completamente diversa? Sì, perché se va in porto il voto di fiducia con i cosiddetti dissidenti, si apre la costituzione di un gruppo politico all'insegna del Partito Popolare Europeo, e beh, è un cambio di pagina abbastanza grosso. E facciamo un'ipotesi, abbiamo ancora 4 minuti, facciamo un'ipotesi prima che cominci a parlare il presidente Letta. Facciamo l'ipotesi che improvvisamente invece Berlusconi va al Senato e con vota. Tutti i suoi e vota. Ah, io non lo escludo. Non perché, lo escludiamo? Beh, scusa, qualsiasi grande giocatore di poker, e Berlusconi lo è, in politica lo è stato e lo è ancora, può bleffare fino all'ultimo minuto e poi tirare fuori invece dalle carte che sono passate sul tavolo un punto importante. Ora, proviamo a metterci nei panni di Berlusconi. È una crisi, io l'ho chiamata la crisi Sturmtruppen, è abbastanza ridicola, è addirittura controproducente per lui. Non migliora le sue posizioni con il Quirinale, non migliora la sua posizione processuale, non migliora la sua posizione politica e non va al 90% al voto allo stato attuale. Allora perché la fai? Perché la fai? A quel punto. E quindi il dubbio che a Berlusconi possa all'ultimo istante convenire andare a votare, anche se a rimorchio di Alfano, che a questo punto butta fuoco, metterebbe in difficoltà il PD. A questo punto l'altro. È un Alfano che ha tirato fuori il quid. Diciamo ha tirato così. Fuori il quid oppure ha tirato fuori la pietas. È Ascanio che si fa carico del vecchio padre, lo traghetta, perché probabilmente lui è come quel figlio che si preoccupa del padre che. Nella fase senile ha delle bizzarrie, ha delle strane uscite, ha quella tentazione di fuggirsene via. Non vorrei fare un esempio brutale, che quei padri in età che vogliono scapparsene con la badante giovane dell'est, capitano queste cose e quindi ci troviamo di fronte non al tradimento ma a un figlio disperato, tant'è vero che conferma e afferma continuamente questa necessità di mostrargli fedeltà volendogli bene. Anche ieri, quando litigavano Sallusti e Cicchitto, litigavano a Ballarò quando in diretta. Grande arriva... programma dell'informazione della RAI. E del regime culturale, se posso dire, con tutti quei denti Ballarò pone delle censure strepitose. Sono i denti di Floris. Floris è un bravissimo professionista. I denti di chi? Di Floris. Ma finisci il ragionamento e quindi? Non stavano litigando soltanto la politica vecchia scuola e il giornalismo militante. Stavano litigando anche due che hanno due modi diversi di trattare Berlusconi. Uno lo vuole proteggere, cioè Cicchitto, l'altro invece ne vuole fare scudo. Una battuta. Kamikaze. I numeri. La quota, il quorum di maggioranza è 161, la quota ipotizzabile per Letta se va in porto l'operazione è tra i 180 e 186, vediamo. Questi e questo sono. Non sarebbe un governicchio, un governo? Questo è un governo di segno diverso, non è una larga intesa, è qualcosa di nuovo. Benissimo. È un progetto politico nuovo. È la necessità. È la necessità. Beh, che si fa virtù qualche volta. E quindi volta, è la vittoria di Napolitano, diciamolo. Assolutamente. Se va in porto. Che dal colle osserva ma determina. Se va in porto avremo il terzo governo del presidente. E ci saranno allora, altri che vanno a cantare nei matrimoni. Esatto. Allora, per finire, la scommessa. Una scommessa come finisce? Come finisce? Secchi. Vince Napolitano, Letta va avanti con una nuova maggioranza, si apre un nuovo capitolo. Domani chi perde paga il caffè. Tu, Buttafuoco? Finisce che Berlusconi vota la fiducia e il PD si dispera. Beh, di fronte a questa scommessa, a questa doppia posizione, prima di chiudere, un ricordo di Giuliano Gemma. È la colonna sonora del film I lunghi giorni della vendetta di Florestano Vancini del 67. Quanto mai adeguata. Musiche di Armando Trovajoli. La linea al GR, l'appuntamento con noi è per domani.